valico e discuteremo con un collegamento delle recenti manifestazioni che ci sono state il 5 aprile a Arquata Scrivia e il 13 aprile a Pozzolo. Dopodiché faremo un altro collegamento per capire com'è andato l'incontro che c'è stato in regione lo scorso venerdì tra i movimenti che si battono contro i rifiuti nel Lazio, appunto la regione. Infine chiudiamo con una piccola notizia su un'indagine che è stata fatta sui cambiamenti climatici che insomma non promette nulla di buono. Get down, 87.9, torniamo in voce, questa è Impatto, la trasmissione che dà voce alle lotte contro le nocività ambientali. Andiamo a parlare della lotta di cui insomma già conosciamo le caratteristiche, del Terzo Valico. Il Terzo Valico sarebbe una tratta ferroviaria che dovrebbe collegare Genova a Tortona, vicino Alessandria, in Piemonte. È un progetto che si trascina dagli anni 90 e che prevede la costruzione di differenti gallerie per la lunghezza di ben 53 chilometri. Ovviamente i lavori di questo tipo andrebbero a produrre un estremo quantitativo di materiale inquinante, perché le montagne di quella zona sono ricche di amianto e di altri materiali nocivi. E per questo, insomma, questo tipo di progetto ha fatto sì che proliferassero lungo questa tratta tutta una serie di comitati che si stanno opponendo a quest'opera. Comitati che, insomma, ultimamente da almeno un anno a questa parte hanno tentato di bloccare gli espropri, in parte ci sono riusciti, sia nella zona del Piemonte che nella zona Ligure, e ultimamente hanno organizzato due manifestazioni, una il 5 aprile, che ha visto anche dei momenti di tensione con le forze dell'ordine, e una lo scorso 13 aprile. Ne andiamo a parlare con una compagna del comitato di Tortona che dopo un intervallo musicale andiamo a contattare. te se messo in testa. Ma che vuoi? Ma che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? E ricordo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, per chi volesse contattarci può telefonare allo 06 49 1750, oppure scriverci alla mail impatto@ondarossa.info. Stiamo contattando la compagna dal comitato di Tortona. Nel frattempo, insomma, vi parlo ancora del Terzo Valico. Questo è un progetto di TAV, ovvero di treno ad alta velocità. Inizialmente era stato pensato per trasportare le merci che arrivavano al porto di Genova. Ovviamente, come succede per esempio appunto per quanto riguarda la Val di Susa, il trasporto merci attualmente avviene principalmente su gomma e sicuramente non prevede un aumento, quindi i livelli di aumento che sono previsti nel progetto del Terzo Valico sono tuttora non rispettati, e per questo insomma quest'opera, fra le altre motivazioni, vede una così grande opposizione da parte della popolazione locale, perché va a intaccare zone in parte già devastate da una industrializzazione massiccia che è avvenuta negli anni 70, in parte ancora diciamo zone a destinazione agricola. On a dead man's chest. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. Drink and the devil be done for the rest. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. The mate was fixed by the bosun's pipe. The bosun. Pronto, Daniela, mi senti? Sì, ciao, ti sento un po' malino, ma ti sento. Allora, innanzitutto vorrei ringraziarti per questo collegamento e per il tempo che ci dedichi. E io non ho voluto anticipare molto dei motivi del no, insomma, per quale motivo le popolazioni del Piemonte e della Liguria si stanno opponendo con forza a questo progetto del Terzo Valico, perché volevo lasciare a te, insomma, il compito di illustrarci le motivazioni del no. Intanto ciao a tutti, lo riepilogo molto velocemente. Terzo Valico è l'alta velocità Genova-Tortona, la chiamano erroneamente la Genova-Milano, ma in realtà il progetto sulla carta si ferma a Tortona, in provincia d'Alessandria, esattamente nell'area logistica della città. Sono 53 km di tratta ferroviaria per trasportare merci dal porto di Genova appunto a quest'area logistica. Da lì in poi queste merci torneranno su gomma. Il costo è di 115 milioni di euro al chilometro, quindi soldi pubblici sottratti, perché paghiamo noi, tutti quanti noi, sottratti a trasporto pubblico, scuola, pensioni, sanità, manutenzione del territorio. I privati non ci mettono un euro, tantomeno l'Europa, nonostante le balle sparate da Lupi e compagni. I danni potrebbero essere altissimi, dal dissesto idrogeologico in un territorio che è già soffocato dal cemento, all'amianto che verrà depositato in quantitativi preoccupanti, e alle sostanze chimiche che verranno utilizzate per gli scavi dell'opera, perché in mezzo ai materiali gli risulta lo smarino, c'è appunto amianto, questo è stato dimostrato con scavi fatti su altri progetti che poi sono stati respinti, invece su questo si insiste. Verrebbero depositati milioni e milioni di metri cubi di questi materiali dannosi nelle cave del nostro territorio, con un'alta concentrazione in tutto l'Alessandrino, in particolar modo anche nel Tortonese. Ed è questa ovviamente un'occasione ghiotta, oltre che diciamo per chi opera su queste cose e quindi gestisce il ciclo del cemento, per i clan dell''Ndrangheta che sono ben radicati qui nella zona per depositare rifiuti tossici. A proposito di questo, le nostre inchieste, che sono tutte visibili sul sito, poi lo ricordo anche dopo, www.notavterzovalico.info, hanno già dimostrato come ci siano in atto già queste infiltrazioni mafiose nelle ditte che gestiscono i lavori del Terzo Valico, e alcuni provvedimenti recentemente adottati dalla prefettura di Alessandria verso alcune ditte qui del Tortonese proprio dimostrano che effettivamente è così. E chi ci guadagna, dicevamo? Paghiamo tutti noi, una grande beffa, perché paghiamo per essere avvelenati e consentire li guadagna il Signore del Cemento. Il COCIV, che è l'ente che costruisce, il consorzio costruttori, è controllato dal gruppo Salini in Pregilo, che crediamo dica qualcosa. Ricordiamo che noi poi qui siamo nella zona del feudo dei Gavio, del gruppo Gavio, e che diverse delle ditte operanti, insomma, in quest'ambito sono in qualche modo legate a questi gruppi, e la nostra zona logistica, dove arriverebbe l'opera, appunto, è gestita da una multinazionale belga, la Cato & Nazie, e dal medesimo gruppo Gavio di cui parlavamo prima, che sono gli stessi Gavio che gestiscono anche le autostrade, quindi credo che sia abbastanza chiaro il giro. Ci sono già stati dei processi, faccende legate a tangenti negli anni 90, perché è una storia che inizia nei primi anni 90. Ci sono state grandi manifestazioni, poi periodi di silenzio, e noi da 2 anni e mezzo ci siamo rimessi in movimento. È nato il movimento Notav Terzo Valico, un po' decisamente molto meno noto di quello della Valsusa, però che insomma sta crescendo piano piano, con difficoltà, ma sta crescendo. Dico con difficoltà perché operiamo appunto in una zona che effettivamente è assuefatta quasi a tutto, però ci siamo resi conto che, parlando con la gente, quando la gente viene informata e sa, allora si rivolta, e che si cerca di mettere a tacere questo tipo di cosa. Sì, infatti ricordavo anche prima che insieme al progetto di TAV, per fortuna, poi proliferano anche i comitati locali che si oppongono a quest'opera, che si trovano sia sul versante ligure che sul versante piemontese. Sì, e vorrei sapere se, Genova, cioè, se sì, ci sono, arriva qua. Qual è il punto dei lavori? So che nel luogo dove è avvenuta la manifestazione del 5 aprile, se non mi sbaglio, è la zona dove dovrebbe arrivare la trivella, e sono già passati all'esproprio dei terreni. Però dunque, forse questo non è omogeneo, cioè questo tipo di i cantieri non sono partiti ovunque. Puoi insomma farci dunque, un po' un quadro. In realtà noi, intanto, dicevo, sono 2 anni e mezzo che siamo rimessi in movimento, abbiamo bloccato tantissimi espropri sia nel genovese che in questa zona. Qualche cantiere è partito, però stiamo continuando azioni di disturbo, perché ce lo siamo detti all'inizio, l'abbiamo ribadito ancora in questi giorni, poi vi racconto meglio cosa è successo ieri e cosa è successo una settimana fa, ma non gliela lasceremo fare quest'opera. È la lotta di Davide contro Golia, ma siamo molto motivati e convinti, perché si tratta di semplici cittadini che appunto si sono rimessi in movimento, che non ci stanno a farsi avvelenare. Dicevamo, comitati che sono sorti dappertutto, dall'area della Liguria, quindi Genova, Valpolcevera, tutta quella parte, fino a qua, fino ad arrivare a Tortona, che è l'ultimo pezzo. Noi in questi 2 anni e mezzo abbiamo messo in campo di tutto, appunto dei blocchi degli espropri, dei blocchi del traffico, volantinaggi, continue assemblee pubbliche, iniziative, video autoprodotti per informare la gente, blocco dei cantieri, blocco degli espropri, tirar giù le reti, stiamo facendo di tutto. È difficile naturalmente, però non abbiamo nessuna intenzione di smetterla, nonostante ci siano arrivati fogli di via, che ci sembra un provvedimento veramente di stampo fascista, denunce, perquisizioni, fermi, da ultimo anche le minacce ad uno dei nostri attivisti, minacce mafiose direi, di alcuni operai del COCIV. Insomma, nonostante tutto questo andiamo avanti, forse proprio perché la gente sta capendo cosa sta succedendo, qual è lo scopo di quest'opera, come sia appunto una beffa, e stia circolando una maggiore consapevolezza. Forse proprio per questo è cambiato anche l'atteggiamento delle forze dell'ordine. Noi l'abbiamo visto 10 giorni fa dal 4 a Scrivia, per la prima volta dalle nostre parti si è scelto di schierare reparti antisommossa, e si è scelto anche di caricare, manganellare con un paio di feriti, per fortuna in maniera non grave. Ricordo pacifico. Che il 5 aprile c'era un corteo che arrivava fino alle reti di un cantiere, no? Sì, siamo arrivati alle reti del cantiere di Radimero, quello d'Arquata, e le abbiamo tirate giù. Naturalmente lì c'è stata questo tipo di reazione, ripeto, per la prima volta dalle nostre parti, e un corteo che era fatto anche di mamme, di passeggini, di anziani, quindi solo la maturità, diciamo così, del movimento ha impedito che la cosa andasse peggio. Naturalmente, come abbiamo detto allora, l'abbiamo ribadito poi ancora ieri con una doppia azione, ci siamo radunati per una festa popolare, un presidio a Pozzolo, dove invece c'è la grande cava della Romanellotta, che dovrebbe ospitare appunto un bel po' di tutto quel materiale tossico che dicevamo prima, E anche lì gruppi, un centinaio insomma di persone assolutamente pacifiche sono andate a tirare giù le reti, e mentre loro schieravano l'antisommossa, che ieri non è intervenuta, però erano comunque presenti e pronti, dall'altro lato abbiamo fatto un doppio blitz e altre persone sono andate a tirare giù tutte le reti della zona invece del cantiere di Saravalle, di Barna. Quindi diciamo così, una specie di beffa, però anche un modo di riaffermare che non ci fermano con le cariche, non ci fermano assolutamente con le denunce o con altri, diciamo così, modi di repressione, perché siamo convinti di stare dalla parte del giusto e non vogliamo che questa terra, che ripeto è già soffocata abbastanza, venga ulteriormente appesantita, violentata da un'opera di questo tipo. Devono sapere che se vogliono farla devono militarizzare anche la Valpolcevera, la Valle Scrivia e tutta quest'area. Noi siamo molto chiaramente giovani e piccoli di fronte al movimento dei Valsusini, ma siamo determinati. Beh, mi sembra giusto che insomma dove non arriva il piano militare di una mobilitazione si mette in campo la fantasia e la voglia comunque di opporsi in maniera sempre nuova a questo tipo di progetti. E io ti ringrazio, se hai qualche data o qualche appuntamento da lanciare puoi farlo. Trovate tutte le informazioni, i video, la storia della faccenda Terzo Valico, le prossime iniziative, tra cui ci sarà una festa, una due giorni, il 26 e il 27 aprile arriva ad Arquata Scrivia, ma comunque in allestimento. Trovate tutto sul sito www.notavterzovalico.info, nonché i contatti con i vari comitati. Insomma, noi andiamo avanti decisi, sereni ma determinati, ci reinventiamo ogni giorno, quindi si possono aspettare di tutto. Va bene, noi ti ringraziamo, sei stata chiarissima e ci risentiremo presto per le prossime iniziative. Grazie a voi per lo spazio. Ciao, grazie. Ciao. My big brother, Big Lee, holding it down. Flamboyant, baby, I hear for you. Life. We nope. Taking over. No doubt. Coming to a theater near you. Check it out. Check it out. Come on, check it. Make sure my mic is loud and my production is tight. Better watch me around your girl if you ain't fucking the right. You damn player haters never wanna see me blow. Flamboyant entertainment, CEO. Yo, the spotlight is mine, it ain't his no more. When Lee come home, niggas can't live no more. And straight, keep a Harlem world mind state. I never lounge where you find Jake. Surprise niggas like a blind date. L rhyme great, and I'ma increase the crime rate for old time's sake. Run with me and I'ma make you a star. When me and my crew hit the clubs, we go straight to the bar. Leave them empty. I cruise through Harlem in the M3. Never pay for parties, say my name and I'm M3. I want some 100G car shit, superstar shit. Selling niggas that wet shit, right out the jar shit. I'm dumb hot, I'll wreck you and your young flock. Keep the gun cop, represent one block. 139, nigga, the danger zone. We quick to put a bullet in a stranger's dome. I'm known to kick a rough rhyme and rock much shine. Yo, I'm out, I done took up enough time. We out, no doubt, you know how we do. Flamboyant for life. To your whole team ghost. Everywhere we go, we must bring toast forever. Popping the chrome, always dropping a poem. I can write it or recite it off the top of the dome. However you want it, I wanna give it to you. Big Al style. They brought it back to the streets, cause that shit sell now. So pal, back up a bit, give me some elbow space. I represent Harlem World, not Melrose Place. So I'ma lace the jewels up with nice baguettes. Flamboyant is the label that writes the checks. Y'all niggas better stop frontin', cause I might get vexed. Then I'ma run up on y'all and slice your necks with the machete. Pockets heavy, sling more cane than Eddie. I represent Uno Chess, Nueve. Time is money, so I stay late. I'm quick to slide a playmate. Bust off like a tray 8, then vacate. Flamboyant. But I leave my school. E di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e insomma dopo la corrispondenza con appunto le mobilitazioni contro la TAV Terzo Valico tra Liguria e Piemonte, continuiamo la trasmissione con un aggiornamento rispetto alle mobilitazioni e alle iniziative che vedono protagonisti i comitati, questa volta del Lazio, alcuni comitati del Lazio riuniti sotto la sigla Energia Rifiuti, che lo scorso venerdì 11 aprile sono andati in regione per avere un incontro con i dirigenti regionali, dirigenti e politici regionali competenti per quello che riguarda la questione raccolta e smaltimento rifiuti. Questa iniziativa si inserisce in un cammino che è cominciato un paio di anni fa del comitato, dei comitati rifiuti energia del Lazio, che si sono riproposti insomma di contestare il piano regionale dei rifiuti qualora venisse emanato, piano regionale dei rifiuti che i comitati del Lazio ne hanno potuto avere soltanto un assaggio lo scorso 13 dicembre. E la bozza di piano regionale presentata dalle aziende del settore e a quanto pare recepito in maniera completa dalle istituzioni regionali, l'abbiamo raccontato bene nelle trasmissioni passate, è qualcosa di veramente vergognoso, e se insomma l'amministrazione regionale dovesse farlo proprio, sicuramente vedrebbe insomma tornare a posizioni e a pratiche, a investimenti che in tutto ricalcano le politiche su questo settore che insomma si sono fatte da più di 30 anni. L'incontro doveva svolgersi venerdì con l'assessore Civita e il presidente Zingaretti. Il presidente Zingaretti in particolare era stato intercettato, per così dire, il 29 marzo ad una inaugurazione di un'isola ecologica ai Castelli Romani a Genzano, e in quel contesto gli era stata consegnata una diffida per quello che riguarda la catastrofe ambientale che si sta verificando ad Albano nel sito di discarica di Roncigliano, e in quel contesto gli è stato anche fatto presente che l'11 aprile si sarebbe scesi in piazza e si voleva parlare appunto della situazione delle discariche e degli inceneritori e degli impianti a biogas e del futuro piano regionale. Purtroppo quel venerdì scorso il presidente della regione non c'era e nemmeno il suo assessore Civita non erano presenti, perché nel frattempo avevano avuto insomma una riunione d'urgenza col sindaco di Roma e il ministro dell'ambiente Galletti per discutere di come uscire da un impasse che insomma abbiamo raccontato la settimana passata. La regione Lazio è stata sul un passo da un'emergenza vera e propria, perché il prefetto di Roma si è messo di traverso emanando delle interdizioni all'utilizzo di TMB e discarica, principalmente per quello che riguarda gli impianti di Malagrotta, gli impianti TMB, ma anche per quello che riguarda la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale. Questi provvedimenti di interdizione erano stati emanati perché le aziende del gruppo Cerroni, Colari e Pontina Ambiente non possedevano il certificato antimafia. Insomma, questo insomma dovrebbe già far capire, ascoltatori e ascoltatrici, come questo gruppo imprenditoriale se ne sbatti anche delle ipocrite prassi burocratiche che insomma prevedono un certificato antimafia, anche se poi anche possedendone uno non è detto che non si abbia un atteggiamento mafioso, però questo è bastato al prefetto per mettere i bastoni fra le ruote all'amministrazione regionale e alle amministrazioni locali competenti. Quindi per tutta la settimana la Regione Lazio, il Comune di Roma, il Comune di Albano sono state impegnate in una spasmodica trattativa per arrivare a una situazione, e purtroppo insomma abbiamo detto da questi microfoni stanno facendo carte false, per cercare di aggirare l'interdizione, quindi cercano di aggirare la legislazione antimafia. E questo, insomma, è un segnale un po' inquietante di come amministrazioni locali siano costrette dagli eventi a farsi beffa di uno dei cavalli di battaglia rispetto alla propaganda securitaria e legalitaria, aggirano appunto questa legislazione facendo delle ordinanze che prorogano l'utilizzo e i rapporti tra la pubblica amministrazione e queste aziende per altri 90 giorni. Quindi, insomma, verso giugno vedremo cosa succederà, quando queste ordinanze scadranno e quali tipo di provvedimenti verranno presi. Certo, insomma, lascia l'amaro in bocca pensare che si debba aggirare la legislazione antimafia per cercare di non rimanere senza alternative, ed è uno di questi dei problemi fondamentali, perché proprio sui giornali e sulla stampa le amministrazioni comunali dietro questo scudo si sono messe per giustificare la loro azione. Non hanno alternative, devono continuare a usare i DMB di Maglio Cerroni, devono continuare a usare le discariche di Maglio Cerroni, perché senza di esse non sanno cosa fare. La raccolta differenziata, che è uno degli strumenti a disposizione per diminuire la quantità di rifiuti totali prodotte e anche quindi la necessità di una discarica, sono praticamente lettera morta, e gli investimenti in questa direzione sembrano proprio sparire all'orizzonte, alla faccia invece, insomma, delle dichiarazioni roboanti che spesso si fanno, specie magari in campagna elettorale, le europee, le amministrative e così via. Noi cercheremo di metterci in contatto con un compagno che è salito su in regione ed è riuscito a interloquire con gli dirigenti e politici regionali che venerdì mattina erano presenti in regione. Ci riferiamo in particolare all'incontro che c'è stato con il segretario dell'assessore ai rifiuti Lazzara e il dirigente del Dipartimento Territorio e Ambiente Pasquini, che è il nuovo dirigente che ha preso il posto di De Filippis, uno dei dirigenti sotto inchiesta e allontanati legati allo scandalo Maglio Cerroni e il sistema Cerroni. Allora, noi promettiamo un po' di musica, ci mettiamo in contatto con questo compagno e ci facciamo un po' raccontare quello che è successo venerdì mattina dentro le stanze della regione. Era il tuo amore, tanto tanto invece il male. Eccoci, ti dicevo, beat sul beat, temi sati come l'ambasciata Yankee di Benghazi. Sì che senti il tempo è da tapparsi i nasi. Vengo dalle fogne senza videoclip in HD, in più cerca di rogne col deforme coi depusti. Polvere sui dischi, il pelo aumenta insieme ai vizi. Bella prassi, tu le viste, MC depressi danno dignità. In cambio di un anno da star, ma baruba. Io ci metto amore in base al male che c'è fuori, tra chi si lascia andare al cachet dei suoi padroni. Siete clown, fate rade, ciao. Federato al sound, serve in seno suono. L'etimo, il battesimo del fuoco. Il vuoto, non lo colmo un voto. La vendetta un piatto, una ricetta per ogni cuoco. Ma ci sta uno stronzo in divisa tra me e la libertà. Tra vaso senza piombo, in bocce di panchi paschi ferrato. Da partita IVA con passiva ira, con passo in riga, poi mi sudo al culo che ti fa la vita amara. Armaci per il conflitto, uccidi il ricco, muori provandoci. Il ritmo della serpe che non striscia, lascia perle sulla spiaggia come l'onda che risacca. Se dalla doppia H ti aspetti un'altra pacca, sulla spalla sono il peso, sulla schiena che ti accascia. Lascia sta, vada se, nada se, rapa. Peso alle parole, le distilla come grappa, fa la posta giusta, strategia del pesce palla, con la bolla d'aria in pancia che ti gonfia come un push-up. Emergenti come stronzi a galla, ma è la merda in un barile, fra barrimi e starra. Ciò che tiene questa scena finché poi non crolla. Fuori dal greggio c'è solo l'ultima colonna, famoso per un quarto d'ora ancora, come disse Warren. Burattino che non sfora è buono per riproporre un suono, poi canti chiaro il testo, meglio non dirlo, resto nel deserto con la scocca dell'armadillo in volo doppia P. Pubblicità progresso, il bici ferma qui, è il mio che corre l'estro, se poi ci aggiungi l'estro, la rabbia, il cuore, il lessico, il cantico del diapa sono il risultato dell'estrigon. Poco poco era il tuo amore, è sempre poco il fuoco, tanto tanto invece il male che metti in questo gioco. Poco poco era il tuo amore, è solo il fuoco greco, tanto vinto in questo gioco. Limite che segue l'ordine. Poco poco è il tuo amore. Se l'irite non vede, quanto quanto ora mi costa. L'elettore è complice. È vero che ogni epoca ha la musica che merita. La verità sorriderà chi medita sulla realtà decrepita. Se fredita la traccia non seguirla. Il pedale è una fogna, Arianna è già carogna, non salvarla. E sia l'eutanasia di questi pop che è diventato cingo per gli spotti che parla. Visioni sotto fondamenta, l'entropia del mondo. Quando ti presenta il conto sarà un vanto per la gente, per la gente che ti ha spinto. Ultima MC non rapito, guarda questa luna. Lascia perdere il dito che la punta, che la punta disciplina sia la grinta. La consapevolezza che ogni via d'uscita è finta. Come una porta dipinta, quindi non affidare. La spinta per emergere è una pinta, il compito di immergere le paranoie antiche. Come sequoie nemiche, sorride a chi la coglie tra le foglie della vite. Quando componi fuori ti ricorda, fini quell'arma che è come una corda tesa di una fionda resa, non è contemplata ora per l'ultima aurora. Un'ultima colonna sonora, questa è carne e senti come suona. Sulla traccia Highlander, tra le salme siamo solo carne, allarme, banditi. E allora, sempre in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, come abbiamo detto, abbiamo in contatto un compagno che lo scorso venerdì 11 aprile è stato presente all'incontro in regione tra il nuovo dirigente Territorio Ambiente Pasquini e il segretario dell'assessore ai rifiuti Civita, nel quale si è discusso delle criticità dei territori che venivano insomma a manifestare sotto la regione alla luce insomma degli ampissimi scandali che in questi mesi hanno coinvolto sia la città di Roma ma un po' tutta la regione. Abbiamo pure raccontato di come in queste settimane si sta facendo di tutto per cercare di aggirare la legislazione antimafia che è stata usata per cercare di bloccare gli impianti di MB e di scarica delle aziende di Maglio Cerroni e di come insomma la situazione sia veramente poco rosea per le amministrazioni locali che sono un po' schiacciate tra il ricatto di Cerroni e la mancanza assoluta di alternative. Noi abbiamo in collegamento Aldo che è stato presente all'incontro. Pronto, ci senti? Sì, come no. Allora, noi ti sentiamo bene e insomma ti volevamo chiedere come è andata questa interlocuzione, chi erano i comitati presenti, di cosa si è parlato e anche che tipo di risposte si è avuto venerdì mattina. Sì, tra gli altri presenti ovviamente nella controparte c'era anche il dottor Placidi che dirige il Dipartimento Territorio Ambiente, quello che poi apparteneva a Raniero De Filippis, quell'individuo che ci ricordiamo tutti che è finito sotto inchiesta e poi non mi ricordo bene ma mi sembra che anche lui sia tra gli arrestati in buona compagnia insomma con tutti gli accoliti dei Cerroni e diciamo il segretario di Michele Civita è Fabio Lazzara. E appunto con lui insomma ci sono stati un po' di come si dice un po' di scintille. Comunque veniamo un po' al quadro generale, cioè erano presenti diversi comitati tra cui naturalmente il coordinamento non inceneritore d'Albano, poi il comitato Cupinoro no di scarica, il comitato Cerveteri, il comitato Genazzano Gallicano e quello di Guidonia. Naturalmente non tutti portavano, a parte che tutti rientrano nel coordinamento rifiuti Energia Lazio, costituitosi insomma da non molto tempo, insomma si tratta insomma di un anno, due al massimo, e comunque diciamo in alcuni territori coesistono più problematiche, chi solo impianti a biomasse, chi impianti a biomasse di scarica, chi cementifici, vabbè insomma comunque situazione complessa. In pratica c'è stata da parte nostra ovviamente la presentazione insomma delle problematiche e soprattutto delle criticità pesantissime esistenti nei singoli territori. Dall'altra parte c'è stato un dottor Placidi che sembrava molto tranquillamente prendere appunti ma che poi in realtà non ha di fatto detto niente, insomma lui in pratica stava a sentire. e tra l'altro aspettava che arrivasse, perché poi è arrivato buon ultimo il segretario di Michele Civitavazzara, e naturalmente i problemi si sono immediatamente manifestati con lui, perché oltretutto c'è anche una notevole, nonostante che non conti praticamente niente in quel contesto, forse era la persona che teoricamente contava di meno, però in realtà, in quanto o perlomeno rappresentante di Civita, insomma c'aveva voce in capitolo. E il quadro che si è manifestato dopo che noi abbiamo esposto le criticità per Albano, notissime insomma, per quanto riguarda l'emergenza di scarica, i referti ospedalieri, la situazione incredibile di inquinamento delle falde acquifere, per quanto riguarda Guidonia lo stesso, insomma, situazione della discarica, che tra l'altro è dell'Eco Italia 87, anche quella azienda del gruppo Cerroni. E quindi naturalmente Bracciano per quanto riguarda la discarica di Cupinoro, perché lì pure ci stavano tutta una serie di problematiche che stavano riemergendo dopo la chiusura del primo febbraio. In pratica non era stata rinnovata l'AIA, c'era stata la chiusura, però poi si sono venute manifestando tutta una serie di intenzioni, complice il sindaco, quindi l'amministrazione di Bracciano, per il ripristino insomma dell'invaso Vaira 1, e vabbè, insomma, quindi c'è stata tutta una serie di illustrazioni molto dettagliate. Il caro Lazzara, dietro appunto insistenti richieste nostre per quanto riguardava le intenzioni della regione, che ancora non ha varato il piano rifiuti, ha detto chiaro e tondo una cosa: sì, sono d'accordo con voi che sicuramente non è più il caso di fare l'inceneritore Albano, e ci ha dato sto contentino di cui tra l'altro avevamo già notizia insomma dal rapporto della Confservizi di dicembre. Al che naturalmente gli abbiamo subito obiettato che questo non ci sembrava se non appunto uno zuccherino, perché poi nello stesso documento della Conservizi veniva detto chiaramente che comunque la partita inceneritori non veniva per niente considerata chiusa, tant'è che veniva evidenziata l'esigenza di potenziare gli impianti del gasificatore Malagrotta e l'inceneritore di San Vittore. Quindi gli abbiamo detto che quello non ci stava bene, ma non gliene può fregare di meno. Passando poi alle questioni più impellenti al momento insomma nei singoli territori, cioè le discariche, gli abbiamo detto che l'era delle discariche naturalmente per noi è ultra finita, e che oltretutto ci stanno anche situazioni in cui la stessa ARPA, che bene o male insomma, anzi spesso male, doveva proteggere l'ambiente con analisi e così via, e soltanto in ultima istanza, cioè quando ormai c'erano problemi molto seri che investiva Ermolli, si è degnata di emettere insomma alcune certificazioni estremamente preoccupanti per quanto riguarda Albano e Guidonia. E appunto lui ci ha detto: cari ragazzi, le discariche a noi ci servono, perché non è che possiamo farne a meno, sicuramente insomma ci sarà una diminuzione progressiva man mano che va avanti a raccolta differenziata, che significa campa cavallo, e nel frattempo però puntiamo tutte le nostre carte perché vengano potenziati e costruiti impianti di trattamento meccanico biologico, e costruiti altri impianti di trattamento meccanico biologico. Noi gli abbiamo fatto presente che naturalmente questi impianti per noi sono nocivi, per noi sono dannosi, alla stregua delle discariche, perché poi si è visto bene soprattutto ad Albano, ma comunque anche in altri siti dove ci stanno impianti scatoloni di quel genere, che cosa in realtà venisse differenziato e separato. Cioè, sì, parliamo del trattamento, insomma. Trattamento meccanico biologico. Del trattamento, cioè, pre-interramento. Deposizione in discarica, no? Cioè i rifiuti indifferenziati entrano, vanno dentro questi scatoloni in cui ci stanno tutta una serie di macchinari, centrifughi e così via, che teoricamente dovrebbero frazionare alcune alcuni materiali, insomma, tipo che ne so, vetri inerti, umido, più o meno sporco da una parte, un po' di plastica e carta dall'altra, quindi materiali un po' più leggeri, materiali un po' più pesanti. In realtà, insomma, avevamo già avuto notizia da indagini dell'anno scorso che tutto questo non succedeva. A fronte di quanto dichiaravano nelle specifiche degli impianti, le quantità erano estremamente ridicole, cioè le quantità che poi venivano separate delle frazioni, e soprattutto la cosa grave è che era stato dimostrato come l'umido, che costituisce quel 30% dei rifiuti indifferenziati, non veniva per niente stabilizzato. Senti, a proposito di umido, abbiamo letto una notizia che sabato pomeriggio il sindaco di Roma, Marino, si è visto col sindaco di Vienna e hanno parlato, insomma, un po' di urbanistica, smaltimento dei rifiuti e quant'altro. Sì. Noi sappiamo bene, insomma, che a Vienna c'è tutta questa propaganda sull'inceneritore dentro la città, insomma, tanto bello e quant'altro. Mm-hmm. Però lì, in quel contesto, il sindaco Marino ha detto che Roma sta puntando sulla biodigestione. Sì, sì. E sì. Quindi, insomma, No, ci arriviamo, perché poi quello è il pezzo forte. Sì, no, infatti poi è il pezzo forte, però, insomma, già la qualità di questa biodigestione sì, va da sé, perché, insomma, la raccolta differenziata è praticamente inesistente, quindi, insomma, pure la qualità dell'umido ne risente, insomma, in maniera notevole, però, insomma, ci arriviamo. Certo. Allora, in pratica abbiamo appurato, c'è stata un'indagine dei NOE per conto della magistratura, che l'umido non veniva di fatto stabilizzato per niente, e questo rendeva conto del fatto che ad Albano, a Guidonia e in altre discariche la puzza è notevolissima, ma in realtà, al di là della puzza, gli inquinanti prodotti, cioè inquinanti che spesso neanche puzzano a volte, no? Cioè tutti quelli prodotti dalla putrefazione dell'organico in pratica vanno a intossicare e avvelena piano piano o forte la gente, a seconda dei casi, perché in certi casi le intossicazioni sono state abbastanza repentine. E a questo proposito costui, sempre stiamo a parlare di Fabio Lazzara, ci ha detto chiaro e tondo: noi contiamo che abbiamo ancora bisogno di realizzare altri TMB, perché stiamo cercando di fare in modo di ottemperare alla normativa comunitaria che ci dice che tutto ciò che va in discarica deve passare prima per questi impianti, e quindi si crea un problema gravissimo per alcune discariche che stanno in chiusura, cioè in pratica per Bracciano e per Guidonia. In realtà esce fuori che le discariche non chiuderanno, perché se vengono comunque autorizzate e incentivate le costruzioni, oppure il completamento delle costruzioni a seconda dei casi, degli impianti di trattamento meccanico biologico al loro interno, stessa cosa vale per Malagrotta, automaticamente tutto ciò che poi verrà scartato da questi impianti potrebbe ancora finire in quelle discariche formalmente in chiusura o in periodo transitorio, eccetera. E quindi lì ci ha detto chiaro e tondo che, insomma, sta cosa continua, loro ce n'hanno necessità e così via. Però siccome la raccolta differenziata procede, anzi loro sono contentissimi che procede, perché in realtà hanno scoperto l'America, hanno scoperto che di quel 30% di organico che costituisce il rifiuto indifferenziato, riuscire a differenziarlo bene gli permette poi di creare un ulteriore passaggio dentro una tipologia di impianti che sono gli impianti di digestione anaerobica con produzione di biogas, che faranno naturalmente la ricchezza di molti imprenditori e la felicità di molti sostenitori, a cominciare da Legambiente per finire in tutta la in tutta la dirigenza del PD e di quelli che bene o male si sono succeduti nel corso degli anni in beh, PD e SEL hanno le mani veramente in pasta in questo nuovo business. Sembrerebbe proprio di sì. Comunque il Lazzara, che pensava che stesse facendoci chissà che concessione, no? A un certo punto fa: comunque ragazzi, i TMB poi pure questi noi valutiamo che insomma nel 2020 bene o male cominceremo a avere senz'altro un 65%, roba che so 10 anni che stanno a dire che arrivano al 65%. Beh, diciamo che al 65% ci dovevano arrivare nel 2012. Del 2012. E il 2020 è la richiesta di Confservizi. È la richiesta di Confservizi che ha fatto tutti i suoi calcoletti sulla base di questa ipotesi. Ora quindi lì insomma la questione è molto molto critica. Perché? Perché questo ci ha detto: gli impianti di trattamento meccanico biologico man mano verranno smantellati, ma pensate un po', noi per fare in modo che non vada persa questi manufatti, che non ci sia uno sperpero eccetera, stiamo caldeggiando la riconversione a impianti a biogas, hai capito? Bellissimo, no? È bellissimo, quindi ci ha già detto chiaro e tondo che tutti questi faranno sta fine. Cadrà dalla padella nella brace. Quindi il sito di Malagrotta da discarica si trasformerebbe con la presenza dei TMB a impianto a biozozzeria. D'altra parte loro già ci hanno e lo gestiranno ancora per moltissimi anni almeno due impianti di captazione dei biogas e degli invasi. Perché è noto che Albano, no? No, ma poi è noto che i gas prodotti dalla discarica sono bio. Tra l'altro, una cosa notissima. Bellissimo, no? Ecco, quindi gli abbiamo naturalmente fatto una bella filippica su quello che è la digestione anaerobica. Io in particolare gli ho detto: dico, senta dottor Lazzara, ma dico, qui sul piano rifiuti dallo scenario all'attuazione della Confservizi c'è sta scritto, e o meglio parlate sempre di impianti di compostaggio. Questa storia deve finire, perché questa è una foglia di fico, perché questi non sono per niente impianti di compostaggio, sono impianti anaerobici con produzione di biogas, che poi in alcuni casi producono anche uno schifo che hanno il coraggio di chiamare compost, ma che non ha niente a che vedere con il compost. Dico, noi stiamo parlando invece di digestione aerobica e di impianti di compostaggio vero. Dico, a questo proposito che ci dite? Dice, beh, noi prevediamo che ci saranno anche impianti aerobici, anche. Quindi appunto questa è la situazione. Di fatto non abbiamo avuto, era evidente che noi comunque avevamo il compito di notificare le nostre criticità, la nostra rabbia e anche le nostre intenzioni, perché qualcuno di noi gli ha detto chiaro e tondo: vabbè, se questa è la situazione sarà guerra, quindi noi continueremo sia da sul piano del contrasto legale, sia su quello della discesa in piazza, sia su quello di tutti i possibili mezzi di contrasto, e quindi questa è la situazione, insomma. Non so se mi è sfuggito qualcosa, però comunque non abbiamo cavato un ragno, ma che vuol dire un ragno da quell'ambiente. Però diciamo anche che le mobilitazioni di questi ultimi mesi, insomma, da partire dall'estate, qualche problema alle amministrazioni regionali gliel'hanno dato. Sono state importantissime, da questo punto di vista sono state importantissime. Tra l'altro l'unica cosa su cui hanno infatti, e questo devo dire anche Placidi, ha convenuto, è il fatto che per quanto riguarda Albano le problematiche sollevate dalla popolazione e tutta una serie di altre evidenze faranno sì che venga studiata con molta attenzione la possibilità che questa discarica venga finalmente chiusa. Certamente non da parte mia e da parte di tutti non abbiamo creduto che questo si realizzerà, però insomma questo è stato detto. Per quanto riguarda le altre, Guidonia, c'è stata la vittoria recentissima, insomma proprio della settimana scorsa, del ricorso al TAR contro la iniziativa con cui avevano addirittura in modo illegale, e lì c'era di mezzo anche la stessa Regione Lazio, autorizzato. Allora, non sentiamo più la voce e pensiamo che sia caduta la linea. Senti, ma no, adesso ti sentiamo, no? Invece adesso ti sentiamo. Ok, pronto? No, invece c'è qualche problema. Va bene, allora, insomma, pensiamo che gran parte di quello che c'era da dirsi ce lo siamo detto e, insomma, la situazione è abbastanza nota a tutti quanti e c'è una volontà politica ben determinata. Si riconfermano le linee guida proposte dalla Confservizi lo scorso 13 dicembre, quindi, insomma, ci sarà da rimboccarsi le maniche e continuare con le mobilitazioni e con l'opposizione ai nuovi piani di rifiuti, nuove discariche, nuovi impianti e soprattutto, a quanto pare, nuovi impianti a biogas. Poi, insomma, questa storia che il biogas prodotto da una discarica si chiama sempre biogas, però fa male, e invece il biogas prodotto da un digestore anaerobico non fa male, e però si chiama la stessa maniera ed è la stessa, ed è, più o meno sprigiona le stesse sostanze. E questo, insomma, è un dato veramente contraddittorio che speriamo si riesca a far diffondere nelle popolazioni per impedire che questi progetti vengano portati a termine. Il dibattito, insomma, in tutta la regione mi pare abbastanza ampio, cercheremo, insomma, di continuare a dare notizia sulle iniziative che verranno messe in campo da qui ai prossimi mesi e poi quando veramente verrà presentato questo piano regionale dei rifiuti, che per ora è un fantasma che si aggira per i corridoi della Regione Lazio. E noi chiudiamo questa parte della trasmissione con un po' di musica e ci risentiamo per la conclusione. E siamo giunti più o meno al termine di questa puntata di Impatto, ricordiamo la trasmissione che si occupa di parlare di nocività ambientali e dei movimenti territoriali che si battono contro di queste, e ne approfittiamo appunto per parlare di due rapporti che sono usciti recentemente. Uno fatto dall'IPCC dell'ONU, che sarebbe l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che praticamente è un gruppo di lavoro formato da un centinaio di scienziati che provengono da circa 70 paesi da tutto il mondo, che insomma ci dà delle notizie veramente, come al solito, poco rassicuranti su quello che è lo stato di questo pianeta. Infatti non solo, secondo questo rapporto, le emissioni di anidride carbonica tra il 2000 e il 2010, quindi nell'ultimo decennio, non sono diminuite, ma sono addirittura aumentate più rapidamente rispetto ai tre decenni precedenti. Quindi, nonostante tutti i vari accordi più o meno rispettati che sono stati fatti fino a questo momento, le emissioni di anidride carbonica continuano ad aumentare. Tutti gli accordi che non sono stati non rispettati, cioè non si è mosso un dito, a parte i dati, ma sembrava, ed è tutto ai fatti, propaganda. Sì, sì, tra l'altro gli accordi, a quanto so, insomma, il sistema della spartizione del gas serra, una nazione può produrre più gas serra e venderlo a una nazione, lo produce meno, cioè, ci sono delle cose da rispettare, quindi c'è questo traffico. C'è la cosiddetta vendita delle emissioni, che si è creato questo fenomeno abbastanza preoccupante. E appunto, secondo questo rapporto, ci dà addirittura un termine di scadenza. Dovrebbero rimanerci solo 17 anni di tempo per cambiare rotta e quindi cercare di cambiare appunto il tipo di consumo di energia elettrica da quelle che sono appunto i combustibili fossili, cioè carbone e petrolio sostanzialmente, per passare a quelle che sono le fonti rinnovabili, però attraverso un cambiamento più che mai drastico, quindi dovrebbe essere appunto circa un 40% entro il 2050, che sembra abbastanza irrealizzabile. Sì, contando poi che l'Italia sta investendo gran parte delle energie nella ricerca di petrolio in Basilicata, insomma non sembra questo poi l'andazzo generale, almeno qui in questo paese. No, poi tra l'altro, se pensiamo addirittura alla nuova tecnologia del fracking, con cui appunto sono state si può usufruire di notevoli quantità di gas e petrolio che prima invece erano inaccessibili, questo discorso appunto sembra più che mai lontano, e questo sembra questo discorso viene anche rafforzato da un altro studio che invece è stato fatto da il World Resources Institute, che è un'organizzazione non profit statunitense, che si occupa di studiare le conseguenze dello sviluppo socio-economico sull'ambiente. E cosa ha fatto questa organizzazione? Ha analizzato praticamente come vengono che tipo di progetti sono finanziati dalla Banca Mondiale dal 2012 al 2013, e secondo questa agenzia circa il 90% dei progetti finanziati dalla Banca Mondiale non avevano presentato una valutazione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Quindi sostanzialmente circa 9 progetti su 10 che vengono finanziati dalla Banca Mondiale se ne sbattono sostanzialmente di quello che potrebbe essere l'impatto ambientale. E la Banca Mondiale a me risulta una delle maggiori entità bancarie che ha capacità di investimento su questo pianeta, e quindi insomma è abbastanza rilevante quello che fa questa banca, e quindi anche le conseguenze che può produrre. Poi tra l'altro io non lascerei pure in sospeso il fatto che tecnologie come l'energia nucleare siano passi l'idea che siano invece addirittura tecnologie pulite, vengono... esattamente, o che possano contenere la produzione di gas serra in qualche misura, perché l'estrazione, per dire, del plutonio stesso è necessario per questo tipo di attività è assolutamente per fare questa cosa è assolutamente necessario un consumo di e una produzione di gas serra notevolissimo, visto che questo tipo di sostanza si trova in miniere insomma in cui è abbastanza complicata la sua estrazione, e il consumo di petrolio connesso a questa attività è veramente veramente una cosa abbastanza importante nella quota di emissioni, se vogliamo calcolare insomma chi inquina e quanto inquina. Tralasciando poi tutto il discorso poi naturalmente sulle scorie radioattive che fino adesso insomma in tutto il mondo non esiste ancora un sito di stoccaggio definitivo per quanto riguarda le scorie radioattive prodotte dagli impianti nucleari. Insomma, questo ci dà un po' la cifra di quanto sia problematica questo tipo di produzione di energia elettrica. Ma a me viene anche da pensare che insomma questo ultimo allarme sullo stato della salute del pianeta in relazione alle emissioni di gas serra contribuisca nel dibattito rispetto a una visione di cambiamento della produzione industriale e non di semplice diminuzione della stessa. Tanti allarmi sono stati dati, i calcoli continuano a confermare il fatto che anche cambiando tecnologia, anche reinventandosi green e bio, poi sostanzialmente se si mantengono gli stessi standard di consumo e di vita nei paesi occidentali, la situazione ambientale non cambierebbe in alcun modo. E invece bisogna ripensare proprio la produzione industriale alla luce dei bisogni reali e non a delle esigenze di mercato che insomma inondano di merci praticamente inutili le nostre vite, però poi lasciando dei rifiuti e delle conseguenze che insomma stiamo toccando con mano tutti i giorni, perché insomma nei paesi occidentali la sensibilità sui temi ambientali è sicuramente più forte che in altri paesi dove in altri paesi, però questo è dato dal fatto che già scontiamo a livello sanitario un pesantissimo attacco da parte soprattutto per le conseguenze di malattie prodotte dalle politiche industriali che abbiamo subito in tutti questi anni, e quindi è evidente che non c'è bisogno di una diminuzione della produzione industriale, ma proprio di un cambiamento della stessa che sia finalizzata, insomma, che venga ridisegnata per le esigenze e i bisogni della popolazione mondiale. Insomma, soltanto una piccolissima fetta della popolazione mondiale gode dei servizi e beni di sussistenza primari, a scapito invece insomma della povertà di gran parte del resto della popolazione mondiale, e questo dato insomma è significativo. Non si può pensare di cambiare politica industriale senza cambiare insomma anche gli obiettivi che la stessa si dà a lungo termine. E quindi andiamo a chiudere questa puntata d'impatto con gli appuntamenti della settimana. Iniziamo da oggi, e alle 19 si terrà un presidio, un saluto in solidarietà agli arrestati di sabato al Gianicolo, quindi insomma per chi stesse andando a fare l'aperitivo, insomma, faccia inversione e si diriga verso il Gianicolo a salutare coloro che sono stati arrestati sabato scorso. E un altro appuntamento è il prossimo 10 maggio a Torino, si terrà una manifestazione popolare in solidarietà agli arrestati Nottav per terrorismo e a tutti gli imputati Nottav, che ricordo sono arrivano quasi al migliaio fra giudizi amministrativi e di tipo penale. Quindi ricordo l'appuntamento il 10 maggio sabato alle ore 14 a Torino. Si stanno organizzando dei pullman per partire da Roma, per chi volesse prenotare il numero è 351-09-30-641. Allora ricordiamo ad ascoltatori ed ascoltatrici che lunedì prossimo Impatto non andrà in onda, e quindi ci risentiremo lunedì 5 maggio e parleremo molto probabilmente delle iniziative Notav e di tutto insomma quello che sta succedendo in Val di Susa, e quindi un saluto a tutti quelli che sono privati e private della loro libertà personale.